Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Dall'Himalaya partiremo questa sera, anzi per l'esattezza dal Karakorum. Benvenuti a questa puntata di Mebius e ascoltiamo insieme i titoli. Vanno sull'Himalaya a scattare le stesse foto di un secolo fa per controllare i cambiamenti dei ghiacciai. La spedizione è italiana e partirà nei prossimi giorni. Micromotori spinti da batteri. È una concreta prospettiva tecnologica che ci arriva dalle ricerche biochimiche più avanzate. L'Unione Europea vuole controllare maggiormente i mangimi per gli animali da allevamento. Arrivano nuove regole a tutela dei consumatori. Un inventore e il Politecnico di Milano hanno messo a punto un sensore per evitare incidenti usando la motosega. Sono molto più frequenti di quanto si immagini. Sui neuroni specchio si è aperta un'aspra polemica fra neuroscienziati tutti italiani. Ne parliamo con Alfonso Caramazza, che ha dato il via al dibattito con una recente ricerca. Sono passati 100 anni esatti, era il 1909, da quella spedizione italiana diretta dal Duca degli Abruzzi. Era una spedizione sull'Himalaya, in particolare sul Karakorum. Ecco, appunto, sono passati 100 anni e un'altra spedizione italiana va esattamente negli stessi luoghi. Fabiano Ventura, un fotografo, è l'ideatore, l'organizzatore di questa spedizione, che ha naturalmente dei contenuti scientifici, e Fabiano Ventura è qui con noi questa sera. Buonasera Ventura. Buonasera Pedrocchi. Allora, partite quando intanto? Allora, la partenza è fissata per il 24 di giugno di quest'anno. E quindi ci siamo veramente vicini. La spedizione del Duca degli Abruzzi in quelle zone fece delle fotografie di vari punti, credo molto importanti per quanto riguarda tutta la morfologia, diciamo, geologica di quella zona. Questo è un primo aspetto piuttosto interessante e anche curioso della vostra spedizione. Voi cercherete di mettervi esattamente negli stessi punti in cui furono scattate quelle immagini? Sì, certo, il nostro intento è proprio questo, ripercorrere le tracce delle prime spedizioni, in particolare questa proprio del Duca degli Abruzzi, proprio per effettuare le stesse fotografie dallo stesso punto geografico di quelle appunto realizzate allora dai primi fotografi esploratori, in particolare in quella spedizione da Vittorio Sella. E quindi questo darà un dato estremamente interessante facendo le nuove foto di confronto, e noi sappiamo quanto per capire lo stato di salute delle montagne questo sia importante. Credo che purtroppo troverete dei dati appunto di diminuzione forte dei ghiacciai, però il confronto sarà molto significativo. Sì, senz'altro, nel ghiacciaio Baltoro in particolare e in tutti i ghiacciai del Karakorum non c'è una grande perdita di superficie di ghiacciai. Sì, attenuto abbastanza. Anche perché, sì. Però ecco, sicuramente lo studio dei ghiacciai in quelle zone è molto importante proprio per studiare il loro stato di salute e capire appunto il bilancio idrico. Questo appunto è l'altro aspetto della vostra missione, cioè andare a vedere in che modo tutto il flusso idrico che scende da queste grandi montagne può essere influenzato da come sono messi i ghiacciai. La parte scientifica, diciamo, i responsabili scientifici di questa missione chi sono? Allora, abbiamo il professor Claudio Smiraglia come coordinatore dall'Italia, che analizzerà un po' tutti i dati di terreno presi invece dal professor Kenneth Hewitt, che è un ricercatore canadese, uno dei massimi esperti della glaciologia del Karakorum, dei ghiacciai del Karakorum, che ci seguirà durante tutta la spedizione, e questi sono i due ricercatori che realizzeranno un po' sia tutta la raccolta dei dati, storico delle fotografie, certo, sia i dati di terreno sul campo. Da queste montagne scendono importanti fiumi e a questi fiumi sono legati i destini di veramente tante persone. Sì, assolutamente sì, il 50% del flusso idrico del fiume Indo è dovuto dai grandi ghiacciai del Karakorum e circa 200 milioni di persone dipendono dalle acque del fiume, quindi è molto importante studiare i ghiacciai, è molto importante rieffettuare queste fotografie proprio per... Al giorno d'oggi molte studi vengono fatti da immagini satellitari, però a questo... Andarci vicino. Anche le immagini da terreno sono molto importanti. importanti. Noi ovviamente per ritrovare i punti esatti abbiamo fatto già tutto uno studio a monte degli archivi storici, nonché utilizzeremo le fotografie sul campo per fare un confronto proprio diretto con il paesaggio, nonché poi utilizzeremo anche delle immagini satellitari tipo Landsat o anche programmi basati sui DTM, che sono dei programmi molto sofisticati per studiare appunto lo spessore e le superfici dei ghiacciai e appunto capire qual è il bilancio idrico. Senta Ventura, il 2009 è il centenario del Karakorum, ma è anche un anno terribile dal punto di vista economico. Siete riusciti a quadrare i conti? Non è stato facile, questo io lo so, dal punto di vista insomma dei costi della spedizione. Ci sono degli sponsor di questa impresa? Sì, questa prima spedizione di questo progetto è stato supportato da due aziende del settore dell'energia alternativa, in particolare da Enel Green Power e da un'azienda da NC, che è un'azienda sempre nel settore della consulenza delle energie rinnovabili. Bene, allora tutta la vostra spedizione sarà possibile seguirla molto da vicino attraverso un sito che avete messo in piedi, no? Il sito è www.sulletraccedeghiacciai.it, corretto? Sì, il sito è www.sulletraccedeghiacciai.it, sarà possibile iscriversi a una newsletter, è un sito che terremo aggiornato costantemente grazie alla collaborazione con Inmarsat, che è una società di Roma che ci fornirà tutti i terminali big e satellitari per poter collegarci a internet, e grazie a questo appunto cercheremo di aggiornare il più possibile con video, testi e fotografie il sito. Allora, ricordiamo, partite il 24. Il 24 e torneremo il 6 di agosto, sì. Una spedizione abbastanza compatta che però dovrebbe riuscire a portare a casa i dati che abbiamo detto. Allora, ci sentiremo probabilmente nelle prossime settimane per seguire un po' questa vostra spedizione. Auguri. Senz'altro, molto volentieri. Abbiamo i telefoni satellitari che appunto ci permetteranno di rimanere in contatto con tutti i giornalisti che vorranno chiamarci e farci delle domande sul campo. I dati, molto volentieri. I dati sul sito. Grazie Fabiano Ventura, lei e i suoi colleghi, e buon viaggio. Grazie a lei, arrivederci. Buonasera. Scendiamo dalle montagne, dove ci sono problemi di alimentazione dei fiumi, come abbiamo visto, e andiamo a livello del mare, dove ci sono problemi di zanzare, non qui da noi, ma alle Galapagos. Certo, anche qui da noi le zanzare sono un bel problema, un fastidio, ma sulle isole equadoregne la vicenda è decisamente più pericolosa. Le zanzare locali hanno mutato il loro comportamento e hanno spostato la loro attenzione verso tartarughe e iguane. Un bel problema, un pericolo potenziale, perché attraverso le punture possono trasmettersi molto rapidamente e anche molto efficacemente tante malattie. L'ecosistema delle Galapagos, lo sappiamo, vive di un equilibrio difficile e questa cosa proprio non ci voleva. Comunque è già partito un piano di emergenza gestito da dei team scientifici, un piano di emergenza per vedere di fare qualcosa per frenare questa presenza delle zanzare. Speriamo che porti dei buoni risultati. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci, pronti? Siamo al nostro gioco, il quiz. Domanda molto breve. Se si erigono troppi grattacieli, vi può essere un rallentamento nella rotazione terrestre? Ecco, allora, prima possibilità. Sì, è possibile se sono molto alti, perché a quel punto raggiungono una dimensione che fa scattare, per così dire, un effetto rallentamento. Ci scriverete dimensione. Seconda risposta, no, perché l'atmosfera gira con la Terra. Ci scriverete gira. Terza e ultima possibilità, dipende da dove sono collocati questi grattacieli. Lungo l'equatore, per esempio, avrebbero un effetto significativo, però lì sappiamo che c'è molto mare, deserti, foreste pluviali. Insomma, però, il rallentamento ci sarebbe se avessimo tanti grattacieli il più possibile vicini all'equatore. E ci scriverete equatore. Dove scriverete? Beh, è il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Sai cosa mangi? La scienza del cibo. Gli autori sono Richard Hartel e Anna Kate Hartel, e edito da Springer Italia. In collaborazione con IBS.it. Non è la prima volta che vi proponiamo una notizia che riguarda l'uso dei batteri, un utilizzo positivo e sorprendente, come spesso accade con loro, i batteri appunto. Ascoltate Chiara Albicocco. Siamo abituati a pensarli in negativo, portatori di malattie, cause di infezioni. Stiamo parlando dei batteri, microrganismi dell'ordine del milionesimo di millimetro. Loro sono onnipresenti nel nostro corpo e in tutto l'ambiente che ci circonda e sono le forme viventi più diffuse sulla Terra. Tanto che in un solo cucchiaino di terreno se ne possono trovare fino a 10.000 miliardi. In realtà molti di essi sono particolarmente utili all'uomo. Pensiamo ad esempio ai batteri che consentono la produzione dello yogurt o a quelli che costituiscono la flora batterica. Adesso è stato dimostrato che si può sfruttare anche il loro movimento per produrre energia. È così, Luca Angelani? Sì, è proprio così. Sì. Luca Angelani, lei è ricercatore del laboratorio SMC, Statistical Mechanics and Complexity, dell'INFM CNR di Roma. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Dunque, allora, da poco avete messo a punto questo sistema che sfrutta l'energia meccanica, diciamo così, del movimento dei batteri per produrre energia. Detto in tre parole, motore a batteri, è corretto? Esattamente, sì. L'idea è abbastanza semplice. Il sistema è costituito da due ingredienti essenziali. Un bagno batterico, ossia quindi un insieme di microrganismi autopropellenti che quindi posseggono una forza autopropulsiva. Mm-hmm. Ad esempio possiamo pensare agli Escherichia coli che sono degli esseri flagellari, ossia hanno dei flagelli che roteando fanno muovere il batterio. All'interno di un fluido, giusto? In un fluido, esattamente. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è un oggetto microfabbricato, delle dimensioni di qualche decina di millesimi di millimetro, con un'opportuna forma. Ecco, lei per microfabbricato intende un microingranaggio, lo possiamo chiamare così? Un microingranaggio, sì, fabbricato con opportune tecniche che sono attualmente disponibili. E la cosa importante è che questo ingranaggio abbia una forma opportuna, ossia nello specifico asimmetrica. In questo caso abbiamo pensato a una rotellina dentata con denti sbilanciati, denti storti, un po' per farsi un'idea, alle ruote delle seghe circolari. Sì. Allora, questi due ingredienti, il bagno batterico che è un sistema intrinsecamente fuori dall'equilibrio e che ha una dinamica irreversibile, mm-hmm. e la rotellina che ha una proprietà di rompere la simmetria spaziale, quindi di essere asimmetrica, rendono possibile ottenere un moto unidirezionale della rotellina, ossia la rotellina ovviamente con fluttuazioni ma comincerà a ruotare in un'unica direzione e quindi questo può essere alla base di un possibile utilizzo per estrarre lavoro utile dal bagno batterico. Si tratta di moto autonomo che hanno questi batteri o li dovete in un certo senso convincere a muoversi? In un certo senso i batteri ovviamente per muoversi devono trasformare una forma di energia in un'altra, nello specifico ci sono complessi processi chimico-fisici all'interno del batterio che trasformano l'energia del nutriente in cui sono immersi i batteri in energia meccanica, in energia cinetica del batterio. Ovviamente però ci fermiamo qui, il resto è tutto avviene tutto spontaneamente. Contrariamente già un gruppo giapponese qualche anno fa aveva ideato una rotellina spinta dai batteri, ma in quel caso i batteri venivano fatti aderire alla superficie della rotellina con complessi processi chimico-fisici attraverso dei canali. Nel nostro caso la differenza è che il tutto avviene spontaneamente, ossia il movimento caotico di questi batteri più la rotellina simmetrica genera il movimento spontaneamente. Ecco, spiegato così sembra semplice e non sembra neanche costoso. Esattamente, infatti i finanziamenti necessari per questa idea iniziale sono bassi perché semplicemente finora abbiamo compiuto un'analisi numerica, quindi di simulazione al calcolatore. Ah. Ora stiamo avviando anche una verifica sperimentale che ovviamente richiederà dei finanziamenti maggiori e ovviamente se va a buon fine si può pensare poi tutta una serie di ottimizzazioni del processo per vedere se poi sarà effettivamente utilizzabile in campo tecnologico. Per ora noi abbiamo scoperto che la cosa è fattibile e il processo avviene, poi ovviamente l'utilizzo dipenderà dall'efficienza che si riuscirà a ricavare da questo processo. Ecco, infatti, a livello di efficienza come siamo messi per questo tipo di meccanismo? Ecco, appunto, l'efficienza per ora è abbastanza bassa, ossia il sistema funziona funziona, ma per fare un esempio grossolano, per accendere una lampadina ci vorrebbe, diciamo così, a occhio e croce un metro cubo di bagno batterico, quindi è un'efficienza molto bassa, quindi per ora non si può pensare di poter diciamo, produrre energia su scala macroscopica, considerando anche il fatto che ancora non c'è una tecnologia esistente per poter estrarre questo lavoro utile dal bagno batterico, quindi ancora tutta da sviluppare. Probabilmente le applicazioni più realistiche potrebbero essere? In realtà potrebbero essere utilizzati per apparecchi microscopici, no? Esattamente, come piccole batterie. Esempio, tutti quei in quelle situazioni in cui uno ha un microdispositivo che può venire azionato semplicemente immergendolo nel fluido attivo, sia in questo caso in un bagno batterico. Applicazioni potrebbero essere nei cosiddetti lab on chip, che sono dei veri e propri apparati micromedicali in cui è richiesta la micromovimentazione di fluidi. Piccoli laboratori formato chip, quindi formato microscopico. Esattamente. Oppure per muovere microoggetti spontaneamente, quindi ad esempio microcapsule contenenti medicinali o qualcos'altro, insomma mossi spontaneamente da questi microorganismi autopropellenti. È ancora tutto da inventare, ovviamente. La base teorica e pratica l'abbiamo dimostrata, ovviamente bisogna vedere se la tecnologia se svilupperà abbastanza per vedere se è possibile utilizzarli dal punto di vista pratico. Senta, è necessario l'intervento umano per azionare questa sorta di motori a batteri? Come le dicevo, l'intervento umano consiste, almeno in questa fase sperimentale a cui ci siamo rivolti, nel creare la coltura adatta per ottenere i batteri mobili, ma ovviamente i batteri mobili si trovano, come diceva lei all'inizio, in natura, quasi ovunque nella terra, dal terreno fertile. Non è difficile trovarli. Non è difficile, esattamente. Ovviamente c'è bisogno, per poter estrarre lavoro, di estrarlo efficientemente, di costruire questi microoggetti di forma opportuna, però una volta immerso il microoggetto nel bagno batterico poi dovrebbe partire, diciamo, spontaneamente il processo di rotazione, in questo caso della rotella, e quindi di produzione di lavoro utile di energia. D'accordo Angelani, allora in bocca al lupo e insomma appena c'è la prima applicazione ci faccia sapere. Perfetto, va bene, grazie a buona voi serata. Dell'ospitalità. Buonasera. Sono qui in mezzo ai pinguini del Polo Sud. Ma che dire, siamo tanto sensibili alle questioni che riguardano la nostra privacy e poi ci dimentichiamo tutto quando si tratta di studiare altri esseri viventi, e in questo caso si tratta appunto di loro, i pinguini, così simpatici, quindi dovremmo essere più sensibili noi a non fare irruzioni nella loro vita. Però devo dire che in questo caso loro non se ne accorgono per nulla, li osserviamo dall'alto, molto dall'alto, da un satellite, che però non è che sta lì a guardare loro, i pinguini, ma qualcos'altro che li riguarda molto da vicino. Adesso vi dico di che si tratta, però prima il problema che hanno i ricercatori che studiano questi animali è questo, cioè che essi, i pinguini, durante l'estate antartica passano gran parte del tempo in mare per mangiarsi un sacco di pesci, questi pesci che rimpinguano abbondantemente i loro strati di grasso, fondamentali per superare l'inverno, quando i pinguini se ne stanno tutti ammassati, stretti uno all'altro in concentrazioni di migliaia e migliaia di individui, e in questo modo infatti si tengono caldo. Io tra l'altro mi sono sempre domandato, visto che in ogni concentrazione ci sono quelli che si trovano sui bordi, se qui i pinguini adottano dei sistemi di turnazione, non so se qualcuno ha studiato questa cosa. Comunque il problema è il seguente: d'estate gli scienziati possono fare ricerca su come si collocano nel territorio le colonie di pinguini, ma non possono farlo perché loro stanno tutti in mare. D'inverno loro si concentrano, dove, come si spostano, cambiano di molto, di poco queste concentrazioni, però qualunque cosa facciano, chi li può studiare? Perché d'inverno al Polo Sud non c'è alcun umano che possa mettersi a studiare i pinguini, fa un freddo impressionante. Eccoci allora la soluzione: le decine di migliaia di pinguini che stanno mesi fermi in uno stesso posto fanno anche, non sarà mica sorprendente, un sacco di popò. Ebbene, questa si vede da satellite anche d'estate, e in questo modo si possono studiare i loro spostamenti, che a quanto pare sono già influenzati dallo scioglimento dei ghiacci. Va bene, adesso esco da questa pur simpatica compagnia di pinguini. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'Unione Europea ha redatto nuove regole per quanto riguarda la composizione dei mangimi utilizzati per gli animali da allevamento, quegli animali che poi diventano alimenti sulle nostre tavole. Sono regole più precise, l'obiettivo è maggiori garanzie per la salute e ve ne parla Barbara Galavotti. Si sa, gli integratori sono una delle mode alimentari di maggior successo. Le vitamine, ad esempio, negli Stati Uniti si comprano nei supermercati in veri e propri bidoncini. Praticamente sono scorte che basterebbero per una tribù e sono anche a prezzi stracciati. In Italia la passione per gli integratori è fortunatamente più contenuta ed è un bene perché il loro abuso in effetti può essere molto nocivo. Ci sono però dei consumatori che li ricevono, diciamo così, d'ufficio. Sono gli animali d'allevamento. Attraverso le loro carni gli integratori possono passare al nostro organismo e per questo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha ritenuto opportuno porre dei limiti. Vediamo quali sono le sostanze di cui l'autorità si è occupata, perché vengono usate e quali sono i loro limiti. Lo facciamo con una persona che di questa regolamentazione si è occupata direttamente, Alberto Mantovani, dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera. Buonasera. Quali sono gli animali che ricevono vitamine oppure altre sostanze come integratori? Tutti gli animali possono avere bisogno di vitamine integratori, ma naturalmente questo bisogno può essere maggiore per gli animali a più intensa produttività, come quelli a rapida crescita, ad esempio il suino e il pollo, oppure la mucca da latte o la gallina ovaiola. È veramente necessario dar loro questi integratori? In certi casi sì, perché si possono andare incontro a situazioni di carenza che metterebbero a rischio la salute dell'animale e la produzione di alimenti. Quindi il problema non sta negli integratori, ma nella quantità di integratori che vengono dati. Naturalmente bisogna dare le dosi giuste andando incontro ai fabbisogni degli animali senza eccessi. Facciamo qualche esempio? L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha raccomandato la riduzione dei livelli di iodio nei mangimi perché erano eccessivi. Gli attuali livelli che sono stati dimezzati vanno incontro ai fabbisogni degli animali e questo è molto importante, ma è ancora più importante che non ci siano eccessi di iodio per il consumatore nel latte o nelle uova. E in effetti che cosa potrebbe causare una dose eccessiva di iodio? Una dose eccessiva di iodio non è certo raccomandata dagli esperti in alimentazione umana della Commissione Europea proprio perché può causare ipertiroidismo e problemi di iperstimolazione della tiroide. Parliamo del cromo 3, cos'è? Cosa provoca? Oh, il cromo 3 è un argomento molto interessante perché il cromo 3 è una forma di questo metallo che in piccolissime dosi è utile per l'organismo per regolare il metabolismo degli zuccheri e dei grassi. Attenzione però, il cromo 3 è stato proposto come additivo per l'alimentazione degli animali da reddito. Tuttavia l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha determinato che le dosi che servono di cromo 3 sono talmente piccole che si trovano naturalmente negli alimenti e non ci può essere una carenza, mentre per contro alte dosi di cromo 3 potrebbero essere tossiche per il consumatore. Quindi ha dato un parere non favorevole all'autorizzazione di una integrazione, un'additivazione di cromo 3 nei mangimi. Ci sono dei limiti anche per la vitamina A che noi considereremmo totalmente innocua e positiva. Beh, in realtà i nostri colleghi che si occupano di nutrizione umana ci dicono che alte dosi di vitamina A possono danneggiare il feto e anche possono causare problemi per la osteoporosi nelle donne di una certa età, soprattutto dopo la menopausa. In fondo la preoccupazione dell'autorità europea è che questi integratori non diventino una sorta di inquinante ambientale, una di quelle sostanze con cui veniamo in contatto quotidianamente senza accorgercene che possono danneggiarci. Un apporto di nutrienti adeguato è indispensabile per la salute sia degli animali che del consumatore che dell'uomo, ma attenzione perché certi nutrienti hanno realmente, ad esempio un altro esempio è il selenio, possono realmente avere una loro tossicità e quindi ne va adeguatamente controllata l'immissione negli alimenti e anche l'immissione nei mangimi, perché noi non ci prendiamo degli integratori attraverso il latte, le uova, la carne senza accorgercene. Proprio l'ampio spettro degli inquinanti ambientali è al centro della sua attività di ricercatore e si parla di molecole contenute oltre che nei cibi, nei detergenti, nelle plastiche, negli insetticidi. Sono sostanze che sono praticamente in tutto ciò che ci circonda. Possiamo approfittare della sua presenza per chiederle a che punto è la regolamentazione di queste sostanze potenzialmente nocive che si trovano in moltissimi oggetti con cui veniamo in contatto? Gli interferenti endocrini si chiamano così proprio perché sono un gruppo di sostanze abbastanza diverse fra loro, ma capaci di interferire con i nostri ormoni e sono una delle priorità del programma europeo REACH per la regolamentazione della produzione di sostanze chimiche in Europa. Parliamo di esempi di interferenti endocrini che possono contaminare le catene alimentari e che quindi mettere a repentaglio la sicurezza alimentare. Un esempio sono il DDT e i composti derivati che, per quanto vietati da molti anni, continuano a contaminare i nostri alimenti per la loro persistenza ambientale. Possiamo dire, da questo punto di vista, che i programmi di controllo stanno funzionando bene e che gli alimenti prodotti nel nostro paese sono complessivamente sicuri. Abbiamo però un problema con sostanze che sono state indicate come meritevoli di attenzione dalla comunità scientifica e dalla stessa authority europea, ma che ancora non sono comprese nei programmi di controllo e deve essere nostro impegno quello di farle introdurre prima possibile. Grazie Alberto Mantovani, buonasera. Buonasera. Parlare di innovazione, lo facciamo spesso qui a Möbius, vuol dire anche migliorare alcune condizioni di base della nostra vita. Una di queste condizioni è certamente quella del lavoro, dei luoghi di lavoro, con il problema ben noto della sicurezza. Ecco, c'è ancora da fare un bel po' di strada per avere ambienti e procedure più sicure. Maurizio Melis vi propone questa sera una specifica soluzione che però contiene un principio tecnologico che potrebbe essere estesamente applicato. Sentiamo. Si parla spesso delle morti sul lavoro e giustamente mi viene da aggiungere, ma molto più numerosi sono gli infortuni, oltre 900.000 in Italia nel 2007. Questi molto più raramente appunto godono degli onori della cronaca, sebbene quelli più gravi possono avere un impatto davvero molto forte sulla vita di chi li subisce. Ebbene, almeno per una tipologia di questi infortuni, quelli dovuti all'uso di motoseghe, c'è una buona notizia. Prima ecco, di pensare che questa tipologia di incidenti siano un fatto abbastanza marginale, diciamo che le motoseghe sono responsabili, si valuta in tutto il mondo, di circa 100.000 incidenti all'anno, con un costo sociale, altro aspetto non trascurabile, che è valutabile in circa $1 miliardo. Ebbene, una piccola società con sede a Como, Redcap Technology, in collaborazione con il Dipartimento di Informazione ed Elettronica del Politecnico di Milano, ha sviluppato un sistema di arresto automatico della motosega in caso vi sia, diciamo, il rischio di contatto tra la lama e parti del corpo. L'idea è di Paolo Cappellari, che è il titolare di Redcap. Buonasera, Cappellari. Buonasera. Dunque, ci spieghi subito come funziona il sistema. Si parte da un piccolo sensore, è così? Allora, io quando parlo di questo nuovo sistema antinfortunistico dico sempre che è un sistema interattivo, perché praticamente abbiamo messo un sensore all'interno della motosega, uh-huh. Collegato ad un circuito interattivo con l'abbigliamento antinfortunistico. No? L'abbigliamento antinfortunistico porta all'interno una fodera, uh-huh. una maglia elastica leggerissima in rame, mm-hmm. Che permette un collegamento elettrico praticamente con la motosega. Abbiamo trasformato praticamente mm-hmm. l'abbigliamento come una specie di gabbia di Faraday, no? Per cui la motosega avvicinandosi sente proprio il volume occupato dalla persona, per cui il circuito si chiude quando accidentalmente la lama si avvicina a una distanza di 10-15 cm e a quel punto si spegne il motore. Questo è quello che avviene. Ecco, mi pare che l'elemento di novità stia nel fatto che per la prima volta si riesce a implementare un sistema attivo di sicurezza e non passivo, cioè un bello scafandro resistente più o meno ai colpi, esatto. Un sistema attivo su un utensile di piccole dimensioni e soprattutto mobile, cioè qualcosa che va in giro, sì. Che non è lì stabile. Sì, questo è il primo sistema attivo di sicurezza al mondo. Allora, fino ad oggi si utilizzano solo sistemi di sicurezza passivi, no? Per fare un esempio si utilizzano strati di fibre aramidiche ad alta tenacità che sono, hanno un effetto antitaglio, ma è insufficiente rispetto a poi a quello che avviene. Questo è il primo sistema di sicurezza attivo per una macchina in movimento, perché la motosega evidentemente quando la si utilizza è in movimento, per cui ce la tiriamo addosso, insomma, cioè questo è quello che succede. Ecco, mi dica una cosa, quant'è l'incidenza più o meno economica di un sistema di questo tipo? Ma allora, l'incidenza è bassissima, perché un chip elettronico di questo tipo, ormai l'elettronica sappiamo che ha dei costi molto bassi, per cui effettivamente noi siamo riusciti a produrre questa tecnologia con dei costi che si avvicinano ai 3 euro per pezzo. Per quindi quanto. Un impatto insomma minimo sul costo complessivo di una motosega, soprattutto di queste professionali. Dopodiché l'aggiunta di una maglia metallica nell'abbigliamento non coincide con l'aumento di costi, perché potremmo diminuire gli strati di aramidica che normalmente vengono utilizzati per la protezione passiva, okay. Che hanno dei costi piuttosto elevati. Certo. Ecco, immagino abbiate pensato ad altre opportunità di applicazione di questo sistema. Abbiamo l'idea di sviluppare lo stesso sistema su altre macchine, come ad esempio mi viene in mente nel settore alimentare, dove si utilizzano dei coltelli elettrici particolarmente insomma, pericolosi. Sì. Certo, anche perché questi tra l'altro producono, soprattutto le motoseghe, dei danni che in realtà sono abbastanza devastanti. Insomma, sì, su infatti, chi... anche perché la catena normalmente oltre a tagliare strappa la carne, per cui cioè, i danni sono veramente importanti e devastanti. Va bene, insomma, chiudiamo l'intervista su questo accento, per la verità un po' macabro, però mai come questa volta devo augurare al mio ospite buon lavoro. Ma io vi ringrazio e devo dire che al di là del pensare di farsi dei soldi da certe idee, io considero che abbia un aspetto etico abbastanza importante, per cui sono contento di aver avuto questa idea. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? Era questo: se si erigono troppi grattacieli vi può essere un rallentamento nella rotazione terrestre, orbene anche questa volta nel scegliere le risposte sbagliate abbiamo detto un sacco di castronerie. L'unica vera risposta è che l'atmosfera gira con la Terra e quindi non ci sarebbe alcun rallentamento. Niente grattacieli sull'equatore o grattacieli che oltre una certa dimensione frenano. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo avuto un incontro con l'importante centro di ricerca sulle neuroscienze, il CIME Carovereto, quindi un centro italiano di eccellenza che sta nascendo. E per parlarvi di questo centro abbiamo intervistato Alfonso Caramazza, che è anche con noi questa sera. Buonasera Caramazza. Buonasera. Allora, lei ritorna da noi sempre per parlare di neuroscienze, ma non soltanto di scienza, o perlomeno ci sono tanti aspetti della scienza e anche questo di cui siamo per parlare va tenuto presente. Ritorno a lei, l'avevo già preannunciato la scorsa settimana, ma non possiamo pensare che gli ascoltatori siano sempre gli stessi, quindi rifacciamo una piccola sintesi, una piccola introduzione. Avevo preannunciato che cosa? Sono uscite delle ricerche proprio dal CIME, che da lei e da alcuni suoi colleghi, che riguardano uno degli soggetti, degli elementi più interessanti di questi ultimi anni nel campo delle neuroscienze, che sono i neuroni a specchio, e a seguito di queste ricerche ne è nata una polemica piuttosto robusta, insomma, e di questo appunto noi vogliamo parlare. Però Caramazza, le chiedo prima di dare un breve quadro, una breve sintesi, insomma, di che cosa sono questi neuroni a specchio. Proviamo in poche parole a dire che cosa sono. I neuroni a specchio è una scoperta molto importante del gruppo di Giacomo Rizzolatti a Parma. Il loro primo lavoro è uscito nel 92 e poi tanti altri lavori. La scoperta importante è che alcuni neuroni nel cervello delle scimmie reagiscono, rispondono, sono attivate quando l'animale fa un compito motorio, muove la mano, fa un gesto particolare, afferra un oggetto, oppure quando vede lo stesso oggetto afferrato da un altro essere, anche umano. E i neuroni a specchio, naturalmente, se ne parla anche come delle strutture presenti nella nostra mente, no? Nel funzionamento anche del nostro cervello. L'importanza di questi neuroni è dovuta al tipo di interpretazione che ne ha dato Rizzolatti e colleghi, L'idea è che per poter percepire, per poter riconoscere un'azione, dobbiamo simularla nel nostro cervello prima di poterla interpretare. Quindi se io vedo una persona che afferra un oggetto, io capisco l'intenzione della persona di afferrarlo perché nel mio cervello simulo quello stesso movimento e quindi riconosco attraverso l'azione motoria del cervello. Ecco, questo è il meccanismo. Ricordo adesso, non l'ho fatto prima, che Alfonso Caramazza è il direttore del CIME, che lei è anche un neuroscienziato. Dal suo accento capiamo che ha vissuto lungamente negli Stati Uniti. Lei infatti adesso dirige il laboratorio di neuropsicologia alla Harvard. Alla Harvard University, esatto. Alla Harvard University. Ecco, allora, Caramazza, con un vostro articolo uscito molto recentemente, sono non più di una ventina di giorni, e invece, insomma, voi avete gettato un sasso piuttosto pesante nello stagno al momento tranquillo dei neuroni a specchio. Qual è stata la vostra tesi in questo articolo? Una premessa: lo stagno non è così tranquillo, potrebbe sembrarlo così forse in Italia. Ma c'è dibattito, lei dice, a livello mondiale. Dibattito abbastanza accanito, importante, sulla interpretazione di questi neuroni, e cioè che per poter interpretare il mondo visivo, se noi vogliamo vedere qualcosa e capirla, dobbiamo prima in effetti passare attraverso una nostra simulazione motoria, quindi il nome neuroni specchio. Noi abbiamo fatto delle ricerche dove abbiamo provato a vedere se nell'umano ci sono questi tipi di neuroni, e nel nostro ricerco non le abbiamo trovate. La differenza tra la nostra interpretazione di questi nostri risultati e quella del gruppo di Giacomo Rizzolatti riguarda proprio il nucleo dell'ipotesi neuroni specchio. Loro sostengono che per percepire bisogna simulare motoriamente l'azione, e quindi che le attività motorie nel cervello sono causali alla percezione, mentre noi sosteniamo che l'attivazione delle aree motorie avviene in seguito a un riconoscimento, a una categorizzazione dell'evento percettivo. Quindi è una differenza molto importante, perché dà un ruolo meno cruciale, meno critico alla componente motoria dell'attività del cervello. Allora, qui ci troviamo di fronte a una divergenza di tipo scientifico, che è, come dire, il sale della ricerca scientifica da sempre. Insomma, sono milioni e milioni i casi di questo genere nella storia della scienza. Non sono nemmeno assolutamente infrequenti anche i casi in cui una divergenza di tipo scientifico, come dire, trascende. La scienza è fatta da ricercatori e ricercatrici, è fatta da umani, e spesso può accadere, insomma, che il confronto si faccia aspro, con dei toni aggressivi che effettivamente contribuiscono poco poi a uno sviluppo di un dibattito scientificamente corretto. Allora, questo lo dico io, anch'io ho visto, insomma, che tipo di dibattito è uscito, ovviamente moltissimo in rete, è lì che lo si vede su internet, e certo i toni sono stati molto esasperati da parte di coloro che invece sostengono la piena validità dei neuroni specchio. E io so che lei, Caramazza, e tutto il suo gruppo, insomma, siete rimasti un po' sorpresi, colpiti, insomma, da questo attacco smisurato. Credo che questo sia stato un po' il suo sentimento, no? Sì, sinceramente non mi aspettavo questo tipo di reazione, anche se la capisco, nel senso che se uno ha dedicato tantissimi anni a sviluppare un'ipotesi e l'ha presentata ed è stata accolta da molti come una scoperta molto importante, che lo è. Lo è, di fatto. Ma non siamo d'accordo su cosa significa, su quale interpretazione. Capisco benissimo che uno si possa animare, agitare da questo tipo di risultato. Però, come ha detto lei minuti fa, dibattito a livello di attacchi personali non porta a a una risoluzione del problema. Sì, penso che ci sia bisogno, insomma, di far rientrare nei binari di una discussione scientifica tutta la cosa, anche perché, Caramazza, qui non si tratta, non è che voi avete sostenuto che sono un falso i neuroni a specchio, c'è bisogno di maggiore ricerca, questo è il vostro di fatto risultato. Sono due aspetti. Il primo aspetto riguarda la ricerca sugli animali. Lì noi non abbiamo messo in discussione, però abbiamo messo in discussione la loro interpretazione. Per quanto riguarda invece l'aspetto sugli esseri umani, lì la questione è più seria, molto più seria, perché per anni si è parlato di risultati che dimostrano l'esistenza di neuroni specchio. Però, come hanno scritto anche recentemente i miei colleghi di MIT, non è affatto così. I dati che sono stati presentati in sostegno dell'ipotesi di neuroni specchio nell'essere umano, nell'uomo, non sono affatto dati attendibili, non sono dati che uno potrebbe usare come per interpretarli come supporto ai neuroni specchio. I nostri esperimenti sono, se si vuole, una specie di conclusione delle varie critiche nell'area che sono venute fuori in questi ultimi anni, dove il nostro esperimento è semplicemente il più recente, forse più focalizzato, che ovviamente i risultati sperimentali sono sempre probabilistici. È possibile che noi abbiamo fatto gli errori. La ricerca è fatta da persone con competenze non illimitate, ci deve sempre il dubbio sulla validità di un risultato. Però questo non dovrebbe mai portare a mettere in discussione i motivi dei nostri colleghi nelle loro ricerche. Non è affatto male che ci siano delle posizioni diverse. La competizione scientifica è fondamentale allo sviluppo della scienza. L'unica cosa che non piace, è comunque comprensibile, sono gli eventi dove la componente umana, se vogliamo la componente emotiva, interagisce con quella intellettiva delle nostre attività di ricerca, e lì uno si sente un po' attaccato, si sente un po' messo in crisi da risultati che vanno contro la propria ipotesi. Direi, Caramazza, che ci diamo appuntamento anche fra non molto in un clima un po' più sereno e un po' più atterrato rispetto a come adesso, insomma, che è piuttosto teso, e vedremo magari di sentire entrambe le parti per provare a ragionare su come stanno le cose. Caramazza, grazie e buon lavoro. Grazie di nuovo e arrivederci. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ricordo a coloro che si trovano nelle vicinanze la rassegna di incontri dedicati alla storia della scienza, rassegna che si tiene a Varese. Trovate tutte le indicazioni sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Domani è l'ultima giornata di questa rassegna. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana.